comunque così è praticamente, ecco qua, eccolo qua. Allora, questo è l'MB più 5, va bene come il Turner oppure preferite il Turner più 3? Allora, ti rispondo subito io, questo qui è leggermente più corposo come modulazione, e il Turner più 3 contiene tutti gli altri, ecco la differenza, però è perfetto lo stesso, una grande come l'altro. Perché questo c'ha praticamente i toni regolabili, tutto lì. Quindi io mi regolo i toni e in base alla tonalità lo porto a quella precisione lì, capito? Però era giusto per capire, eh? Quindi i toni li lasciamo così a 1, come li avevamo regolati l'altra volta, si può usare anche questo, eh? Va bene, allora io vi saluto, grazie per le due chiacchiere, grazie per le prove, grazie per tutto, ciao Gianni Lubrofetta, ciao Franco, ciao Tino, ciao Giulio, Massimiliano che è in QRX ascolto, e niente, dai, un saluto circolare a tutti, buon proseguo per chi prosegue, se ci siete ci sentiamo dopo, va bene? Il cambio per te Tino, dai, ascolto il finale, poi mi sposto, ma lascio tutto acceso, se ci siete rientro dopo, capo. Ehi, anche io ogni tanto mi devo spostare, che devo fare cosa a casa, il dovere mi chiama. Sì, va bene, claro, va bene. E poi, la radio è sempre perfetta, sempre brillante, più che forte, quindi. Sto ascoltando con il 48, quindi la colonnina la fai vibrare, già va bene. Ok, saluto anche io, mi devo spostare. Riprendi, Franco. Ciao Tino, allora, ciao Claudio, ad esempio, grazie anche a voi per la chiacchierata, a domani eventualmente, intanto sono quasi ora della sera, per cui ancora alcuni passaggi magari con Franco se rimane ancora, e dopodiché quello che faccio, vedo che svantaggio, uno è questo, con la rotellina praticamente al massimo, se la metto così è molto più bassa, grosso modo metà, se la metto così è ancora più bassa. C'è la differenza, si sente la differenza? Non ho notato niente, non ho notato niente. Ah, e allora, a cosa l'hanno messa questa rotellina? Non lo so, vediamo, basta ancora. Adesso è abbastanza molto, adesso quasi al vero. Com'è adesso? Forse non ho mai sentito. Adesso com'è? Adesso va bene così. Sì, sì. Tutto bene, chiaro. Ho capito. Vediamo qua, allora, adesso è il numero. Adesso è a 5. A 5 adesso è. Esatto. Anche da vediamo. Thank you. modificare il tavolo effettivamente, oppure con questa delta, quello con quello che ho io che si chiude, e il campo si chiude perché si avviene, no? E anche il vizi addizionale addirittura, due cifre, e poi alla regolazione anche della profondità. Sì, sì, è un bel conto, sono sicuro che va benissimo nel gioco. Sì, guarda, il testo è abbastanza onesto, perché rispetto, quello oggi ancora oggi, non il testo che lo trovo nemmeno in 150, va. Sicuramente è così, sono sicuro, perché rispetto è una radio che mantiene il testo, tanto perché è già una radio vintage, dunque va sempre per gli amatori, dai, diciamo, o per le gente con collezionisti, eccetera. E poi un signor apparente, dai, ha un bel circuito dentro, già lo so, sì, è musica, è alla grande quello, veramente. Ciao Sandro, ciao Sandri, buoni collegamenti, a presto, ciao ciao.